Come detto, è il 4 novembre, è venerdì, e allora vediamo i titoli di apertura che sono dedicati alla situazione economica e finanziaria europea e alla crisi della maggioranza per quel che riguarda i numeri, questi nei titoli di apertura. Per il Sole 24 Ore, Draghi taglia i tassi, volano le borse, così apre la stampa, Draghi taglia i tassi, borse, ok. Mentre sulla situazione politica, per Repubblica, ultimatum dei grandi all'Italia, il Corriere della Sera, la maggioranza perde pezzi, il Giornale, nessun passo indietro. Libero, referendum su Silvio. Libero inizia questo referendum tra i lettori chiedendo: deve mollare? Il Fatto Quotidiano, maggioranza addio. Mentre il Messaggero, Berlusconi, maggioranza a rischio. Per l'Unità, titoli di coda con la foto di Berlusconi a Cannes, mentre i colonnelli greci è il titolo del Manifesto con una foto di Sarkozy e Angela Merkel. Allora, intanto voglio partire da una segnalazione il venerdì ben rassicurante, come al solito. Andiamo un po' a sfruculiare nei costi della politica. Lo fanno, come al solito, Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, in maniera puntuale, andando a spulciare i bilanci delle regioni italiane. Ebbene, ecco qua, prima pagina del Corriere della Sera, tutti i costi delle regioni, dal cannolo al sushi. Sarà per via del sushi, chiesto nel menù con il cannolo e la pasta col finocchietto. Sta di fatto che la caffetteria ristorante dell'Assemblea regionale siciliana costa 879 euro al mese per ogni deputato cliente. Quanto prende un pensionato medio dell'INPS? Ma sono un po' tutti i parlamenti regionali a costare uno sproposito, al punto che se tutti pesassero pro capite quanto quelli lombardo o emiliano, potremmo risparmiare 606 milioni di euro l'anno. Mette spavento confrontare i bilanci delle regioni, scrivono Stella e Rizzo. Come mai, per esempio, il presidente dell'Assemblea regionale della Calabria ha a disposizione un budget di spesa di rappresentanza di 600.000 euro, cioè 54 volte più del suo collega dell'Emilia-Romagna, che ha il doppio degli abitanti? Perché in Puglia e in Lombardia l'indennità di fine mandato di un consigliere è due volte e mezza più ricca rispetto a quella delle altre regioni? Non è facile leggere i dati, ogni amministrazione infatti compone i bilanci a modo suo, ma il punto di partenza è la proposta di Matteo Richetti, che tra l'altro, ve lo ricordate, è un amico di 24 Mattino. Lo voglio ospite lunedì, lo chiameremo sicuramente. Il punto di partenza è la proposta di Matteo Richetti, presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, cioè l'adozione del parametro 8 euro. Che cos'è? È il costo pro capite più basso dei diversi parlamenti. Se certe assemblee come la Lombardia o quella dell'Emilia-Romagna vivono con 8 euro per ogni cittadino, perché altrove no? I divari sono smisurati. Rispetto al numero degli abitanti, il Consiglio regionale lombardo costa appunto 7,7 euro pro capite, quello altoatesino 14,27, quello in Umbria 25,94, quello siciliano 34,77 euro pro capite, quello lucano 40,45, quello sardo 50,87 euro pro capite, e poi il parlamentino valdostano, per non dirne, 124 euro pro capite, 16 volte più dell'Assemblea lombarda. Perché? Ecco, insomma, tutti questi costi comparati delle regioni, gli sprechi e i tagli rinviati, regioni, ecco chi spende di più, il costo delle assemblee legislative. Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. Vi invito alla lettura e poi, ripeto, lunedì probabilmente ne parleremo. Poi voglio segnalarvi la vicenda di una persona il cui nome e cognome è entrato nella storia dell'Italia per questo gesto considerato aggressivo. Ve lo ricordate? La statuetta del Duomo che fu scagliata in faccia al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che era proprio tra l'altro in visita in un comizio nei pressi del Duomo di Milano, Massimo Tartaglia. Ve lo ricordate? Io sempre mi sono chiesto: ma che fine avrà fatto Massimo Tartaglia? Tartaglia torna a casa, così fa sapere a pagina 9 Repubblica. ha dichiarato: non incontrerò Berlusconi, non voglio conoscerlo, gli ho già chiesto scusa, lui mi ha perdonato, ora lo vedo in ottima forma, ma sono ancora dispiaciuto per quello che gli ho fatto, potrebbe essere mio padre. Questo è quello che ha dichiarato, apparendo lucido e sereno, al giornalista di Repubblica Davide Carlucci. Così Massimo Tartaglia ricorda quel 13 dicembre del 2009, quando scagliò, appunto, ferendo al volto il presidente del Consiglio, un souvenir del Duomo. 44 anni, parla dalla sua casa di Cesano Boscone, alle porte di Milano, dove è in libertà vigilata. Fu accusato di lesioni pluriaggravate, ma fu assolto per incapacità di intendere e di volere nel giugno del 2010. Ora dichiara: il mio percorso non è ancora finito, devo ricostruire la mia vita, la libertà vigilata mi impone limitazioni, per esempio non posso uscire da Cesano e questo aggrava i miei problemi economici perché vorrei dare una mano a mio padre ma non posso, la sua ditta è fuori paese. Dice di avere razionalizzato al 50% l'aggressione al premier. Seguo ancora la politica, ma non c'è più la rabbia di una volta, non mi interessano più le manifestazioni pubbliche, se anche potessi non le frequenterei, devo solo pensare a ristabilirmi e a fare attività fisica. In tutti questi mesi che ho fatto ho dipinto quadri, è stato in una clinica per malati di mente. In tutti questi mesi ho dipinto dei quadri, c'è stata anche l'ipotesi di realizzare una mostra, mi sto dando al computer, ho 44 anni, devo riacquistare le mie potenzialità. Così parlò Massimo Tartaglia su Repubblica, pagina 9. Ci fermiamo, ci sentiamo tra 6 minuti. Allora, la lettura dei giornali... Beh, partiamo da quello che è successo in Europa e la situazione economica e finanziaria. Come prima decisione, anche a sorpresa per la verità, il neo governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha proposto e il board ha approvato all'unanimità il taglio del costo del denaro, che scende dall'1,5 all'1,25%. Draghi a sorpresa taglia i tassi, così titola pagina 3 del Sole 24 Ore con l'articolo di Alessandro Merli che spiega appunto come questa scelta sia stata approvata all'unanimità dal board della BCE. Il titolo efficace della Stampa anche è: la BCE alleggerisce i mutui. Praticamente con i nuovi tassi su un prestito ventennale a 100.000 euro se ne possono risparmiare 150 l'anno. Allora, il problema cos'è? Vi voglio segnalare l'articolo molto puntuale di Maximilian Cellini e Moria Longo sul Sole 24 Ore, pagina 5, perché si capisce quali sono poi gli effetti pratici del taglio dall'1,50 all'1,25% del costo del denaro. Famiglie e imprese, resta il nodo Euribor. Le ricadute sull'economia sono queste, a giudicare dalla reazione delle borse, che subito hanno fatto registrare un rialzo dopo la decisione della BCE. Il taglio dei tassi deciso dalla nuova BCE di Mario Draghi ha centrato il segno. Abbassare i tassi ufficiali dall'1,5 all'1,25 significa solitamente favorire l'accesso al credito a tassi più convenienti per famiglie e imprese. Significa, insomma, dare una spinta all'economia. Eppure, a parte l'euforia dei mercati, il rischio è che questo effetto benefico sia più un'illusione temporanea che una realtà duratura, perché è ormai chiaro che i tassi di interesse pagati da imprese e famiglie italiane, spagnole, irlandesi, portoghesi o greche non dipendono più tanto dai tassi ufficiali della BCE, ma da come gli investitori percepiscono il rischio dei loro stati. E tra l'altro, vedete, gli stati citati sono non a caso quelli più sotto attenzione. Il timore, insomma, scrivono Cellino e Longo, è che l'effetto benefico del taglio dei tassi possa essere concreto solo nella metà forte dell'Europa. Per i paesi in difficoltà, che insieme rappresentano il 36,5% del PIL dell'area euro, la mossa della BCE rischia di essere neutra. Il problema, infatti, è che gli istituti di credito, le banche, insomma, dei paesi in crisi, da tempo faticano a trovare finanziamenti sui mercati a tassi convenienti. È per questo che le banche hanno dovuto rincarare il costo del credito a imprese e famiglie. Calcola la Banca d'Italia che a inizio 2010 le aziende italiane trovano finanziamenti con un tasso medio del 2%, mentre ora il costo sfiora il 3,5%. Ecco, allora ha spiegato perché, a parte l'euforia iniziale, il rischio è che questo taglio di tassi possa dare in realtà un effetto benefico soprattutto nell'Europa forte, mentre nell'Europa più debole, tra cui l'Italia, è più attenzionata, poi i benefici si vedranno non moltissimo. Sempre per rimanere all'estero, sono i giorni del G20, sul giornale è pieno di analisi di quello che sta succedendo, con Berlusconi che si è presentato non con il decreto legge ma con il maxi emendamento da mettere nella legge di stabilità ed approvare entro 15 giorni, ha detto onoreremo i nostri impegni, li abbiamo presi e quindi li onoreremo. Pare che stavolta non sono arrivati fortunatamente risolini o risate o risatine, ma una situazione molto più istituzionale, per esempio da parte di Sarkozy, che pare insieme ad Angela Merkel abbia chiesto comunque una questione sui tempi, insomma, non tanto sugli impegni presi ma sulla necessità di rispettare tempi, anche tempi molto serrati. C'è anche il presidente Obama che ha dichiarato il piano bene ma va avanti, e se cambia il governo non cambiano comunque i problemi del paese. Insomma, un Berlusconi che tenta di rassicurare l'Unione Europea dicendo porrò la fiducia su questo maxi emendamento e entro 15 giorni approveremo quello che tra l'altro vedremo tra poco che cosa c'è in questo maxi emendamento. Tutti però sottolineano una sorta di solitudine. Qualcuno sulla stampa, per esempio, a Medio la Mattina racconta di questa frase di Berlusconi che ha detto potrebbe essere il mio ultimo G20. Il Secolo XIX sottolinea questa volta neanche un cucù alla Merkel, Silvio è rimasto solo. Repubblica parla di un Silvio Berlusconi addirittura isolato, imbarazzante, in maniera imbarazzante dagli altri grandi al G20. Sta di fatto che insomma sono le letture che danno un po' i giornali, anche in base al linguaggio del corpo, in base alle strette di mano, in base ai tentativi di avvicinare un leader che magari ti guarda un po' di striscio e va da un altro leader. Insomma, anche così la diplomazia fa capire chi acquisisce o chi perde importanza in queste situazioni. Sta di fatto che se dall'Europa ci spostiamo in Italia, tutti i giornali sono alla lettura di quello che sta succedendo con una maggioranza che sembra giorno dopo giorno si stia sfaldando in maniera evidente, con deputati magari di piccolo cabotaggio, deputati dai nomi poco famosi, poco celebri, che cominciano a dire passo di qua, non voto più, vado nell'altro partito, Berlusconi deve lasciare, insomma sta di fatto che i numeri ora sono in grave bilico per quel che riguarda il Parlamento e la maggioranza. Detto che Giuliano Ferrara, che era nostro ospite ieri, oggi sul Foglio in un articolo rilancia le elezioni subito, bisogna fare le elezioni subito a gennaio. Poi ce l'ha ancora con Tremonti, che ieri ha attaccato qui in diretta e che oggi ribadisce sul Foglio. È un altro che non fa il proprio mestiere, un molesto cinicazzo di cui sbarazzarsi al più presto e per sempre, che ha saputo fare l'avanzo primario ma non ha saputo farne nell'interesse del paese. Alla fine si è messo a tramare contro se stesso, a berciare scemenze alla festa della zucca di non so dove. Insomma, questo è il giudizio impietoso di Ferrara su Tremonti. E poi Ferrara dice bisogna andare al voto, elezioni subito, sotto la neve, spiazzamento generale, ve le deve dare lui la soluzione alla Zapatero, ve le deve dare. E vediamo se rimettete in piedi una specie di governo Dini, fucilatori e mezze figure del partitone parruccone. Così conclude il suo editoriale Giuliano Ferrara. Sta di fatto che la maggioranza perde pezzi. Come fa notare il Sole 24 Ore, pagina 12, ora il governo è sotto quota 315 alla Camera. E con 630 deputati la maggioranza più uno fa 316. Tra l'altro ci sono anche un deputato che è gravemente malato, Franzoso, e un deputato Papa che ha gli arresti domiciliari, quindi due del Popolo della Libertà che sono impediti di votare, e quindi i numeri scendono ulteriormente. Tanto che attenzione, attenzione ai radicali. Secondo Repubblica, retroscena di Francesco Bei, Berlusconi vuole resistere fino a dicembre. Questa è da alcuni giorni che viene proposta. Perché questa data di dicembre? Perché se passa questa legge di stabilità col maxi emendamento, se si resiste fino a dicembre, poi in realtà non è che vuol dire si va al 2013, per Francesco Bei su Repubblica, poi si può andare a votare a gennaio, velocemente, far cadere tutto. Secondo Francesco Bei, addirittura gli spazi pubblicitari per le affissioni sono già stati prenotati per le votazioni a gennaio o comunque in primavera. Ma se si resiste fino a dicembre, il concetto è non c'è più spazio per un governo tecnico. Come dice anche il ministro Rotondi, vogliono scongiurare dalla maggioranza, se dovesse precipitare la situazione, il governo tecnico, perché con un governo tecnico un Renzi potrebbe avere un anno per organizzarsi, il che vuol dire per poi diventare il possibile candidato premier. Se invece si scongiura il governo tecnico e si va alle elezioni subito, l'avversario dell'opposizione sarebbe Bersani. E secondo i calcoli della maggioranza questo potrebbe facilitare una vittoria ancora del centrodestra. In ogni caso, anche per il giornale, la maggioranza è appesa a un filo. Berlusconi teme il martedì nero. Già martedì si vota sul rendiconto dello Stato. Libero addirittura fa un sondaggio tra i suoi elettori a chiedere: secondo voi Berlusconi deve mollare? Deve lasciare tutto? Insomma, capite che il clima è questo. Perché dicevo attenzione ai radicali? Perché ci sono sei radicali eletti nel PD nella Camera, e a questo punto sei voti contano tantissimo. Rita Bernardini, anzi sono cinque, a me risultano sei, non so perché il Fatto Quotidiano scrive che siano cinque, a me risultano sei in ogni caso. A pagina 2 del Fatto Quotidiano, noi radicali pronti a votare con il governo. Non abbiamo deciso nulla su questo maxiemendamento. Prima vediamo il testo, poi decideremo che fare. Come sono abituati a fare i radicali, sempre e solo nel merito. Attenzione dunque ai radicali. Per quel che riguarda gli altri, invece, appunto, assisterete a un insieme di interviste di persone che fino a poco fa probabilmente non sapevate neanche di avere come vostri rappresentanti in Parlamento, ma che ora diventano decisivi. Alessio Bonciani lascia il PDL e va all'UDC. Intervistato dall'Unità: la mia scelta è frutto di una sofferenza antica. Poi manda anche una lettera al Corriere della Sera per spiegarlo. Oppure Ida d'Ippolito lascia il PDL dopo 17 anni. Sono calabrese e quindi coraggiosa, titola oggi il Corriere della Sera, pagina 9, fa un'intervista. Sono andata con l'UDC perché credo sia quello il partito che interpreta meglio i valori in cui credo. Abbiamo fatto un lungo pezzo di strada assieme a Berlusconi, ma nella vita ci sono momenti diversi. Questo è quello del coraggio di cui è capace la gente della mia terra, la Calabria. Alessio Bonciani anche al Quotidiano Nazionale: vado nella casa dei moderati. Mentre Straquadagno, che sarà ospite di Oscar Giannino alle 9, si difende: io traditore, ma che, sono più berlusconiano di prima, noi stiamo solo cercando una soluzione per il paese in piena lealtà. Mentre questo è l'orario e sono le ore e i giorni in cui si scatena chi? Denis Verdini, è colui che deve cercare sempre di recuperare i dubbiosi, quelli che vogliono lasciare, quelli che vogliono abbandonare. E attenzione, perché sia la Stampa che il Libero fanno notare che contro Denis Verdini chi invece sta cercando di portare, di convincere le persone a lasciare il Popolo della Libertà, un grande ritorno. Cirino Pomicino, Paolo Cirino Pomicino, è lui alla regia dello strappo. A pagina 11 della Stampa, Fabio Martini: i centristi calamita, la regia dello strappo è di Cirino Pomicino. Dunque, da una parte Denis Verdini che chiama dicendo stai con noi, caro deputato, non lasciarci. Dall'altra parte Cirino Pomicino che invece fa le cene. Tanto che Libero la mette così a pagina 2: Pomicino contro Verdini, la sfida dei raccogli voti. Denis Verdini è più diretto, ti chiama, ti spiega perché devi stare qui con noi, te lo spiega 1, 2, 3 volte. Cirino Pomicino invece è un vecchio democristiano, esperto di cene, correnti, grandi strategie, scenari futuri. Ecco, la tenuta del governo e della maggioranza dipende da Denis Verdini nel Popolo della Libertà e Cirino Pomicino che invece tra i centristi cerca di convincere ad andare via. A chi va via? Per chi va via? Per chi cambia partito? In questo momento invece, prima del traffico lo devo dire, la ricetta e la soluzione per Francesco Storace, il segretario della destra, è questa: i deputati che cambiano ora partito meriterebbero di essere fucilati alla schiena. Allora, come detto, avremo il ministro Renato Brunetta alle 8:30 ospite. Tra l'altro su tutti i giornali c'è un'analisi di questo maxi emendamento alla legge di stabilità, cioè non è arrivato il decreto ma questo maxi emendamento. Il Sole 24 Ore spiega a pagina 16 che cosa è contenuto, tra l'altro dando una pagella dell'efficacia dalla giudizio alta o media o bassa di quello che è contenuto in questo maxi emendamento in termini di, per esempio, di promozione e valorizzazione del capitale umano, di efficientamento del mercato del lavoro, dell'apertura dei mercati in chiave concorrenziale, del sostegno all'imprenditoria e all'innovazione, della semplificazione in termini di snellimento della giustizia. C'è anche un piano di dismissioni, vale a dire quello sugli immobili pubblici, la possibilità di trasformare dalle caserme alle case. C'è poi un tema, e ne chiederemo conto al ministro Brunetta, che riguarda gli statali. Il Messaggero ci fa una pagina, a pagina 12, a firma Luca Cifoni: per gli statali in esubero arriva la paga ridotta e il licenziamento. Questo è il titolo. La novità è questa: sulla carta già oggi è possibile dichiarare in esubero un dipendente pubblico, provare a ricollocarlo in un'altra amministrazione e poi licenziarlo dopo 2 anni se il tentativo non riesce, ma solo sulla carta. Con la norma invece messa a punto nel maxi emendamento, il governo vorrebbe iniziare ad applicare effettivamente questo principio. Per quel che riguarda il pubblico impiego, la novità principale consiste essenzialmente in che cosa? Nel fatto che le procedure di mobilità obbligatorie potranno svolgersi senza il coinvolgimento dei sindacati, come invece è previsto ora. Per cui se un dipendente pubblico è considerato in esubero, si potrà portare allo spostamento, alla mobilità. Prima ci voleva una concertazione coi sindacati, un confronto, ora invece verrà data solo una informazione. Dopo 90 giorni il personale che non è stato possibile ricollocare o che ha rifiutato il trasferimento viene messo in stato di disponibilità con un'indennità pari all'80% dello stipendio, comunque valida ai fini previdenziali, e dopo un periodo di massimo 2 anni il rapporto di lavoro si interromperà automaticamente. Questa è la novità per quel che riguarda i dipendenti pubblici. Ci sono molti articoli su Santoro, non so se l'avete visto, io un po' l'ho visto, devo dire ha perso un po' di smalto secondo me, ma non l'ho visto tutto e non l'ho visto bene, poi c'era anche un travaglio lunghissimo, insomma, però insomma, se l'avete visto, i giornali di solita cosa, i giornali di destra accusano, è il solito metodo Santoro, i giornali di sinistra dicono ecco nasce la TV di opposizione, vabbè, insomma, qualunque cosa fa Santoro, questo è un bene. Il dibattito pubblico sulla televisione si anima. Voglio segnalarvi invece puntata numero 2, Claudio Amendola versus il ministro La Russa, che dopo i fischi alla Festival di Roma, dicendo gli ha aizzati Amendola, gli ha dato ripetutamente dello stronzo. E allora Claudio Amendola, oggi intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: c'erano 800 persone lì che hanno visto La Russa sul tappeto, hanno interrotto le loro attività per una pacifica, quanto assordante manifestazione di ripulsa. Ho condiviso i fischi e li ho accompagnati con le braccia e un gaudente pugnetto al cielo che rivendico. Ah, dunque, insomma, Amendola dice qualcosa per aizzare, ho fatto, insomma. Ero andata a vedere il film, ero lì per caso, ma non posso accettare le accuse di La Russa, soprattutto non gli insulti, ma il fatto che mi ha detto di guadagnare soldi con Mediaset. E allora, dice Amendola, credo di riportare all'azienda che mi paga almeno quanto investe su di me. E poi conclude: e quindi ci vedremo in tribunale con La Russa. Ah, però, insomma, allora continua questa rissa. Vabbè. Ci fermiamo qui, detto che in 10 secondi in Gran Bretagna è allo studio dal Premier Cameron che cosa? Il divorzio fai da te. Per ridurre i costi, per ridurre i tempi, i coniugi che vogliono divorziare si mettono d'accordo, fanno tutto telematicamente e il divorzio è fatto. Regno Unito, il divorzio è fai da te. Lasciarsi online, l'ultima mossa di Cameron per risparmiare soldi pubblici. Il Giornale Radio.